l'Italia, l'Italia, le mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa. Stringiamoci a corte, l'imposta è più forte e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della Belva. Di Carlo Alberto Carnevale Maffè, Oscar Giannino, Mario Seminerio e Renato Cifarelli. Buongiorno cari ascoltatori di Radio 24, in questo sabato 30 di gennaio sono le 10:08, primi 10 secondi, e questo inizio di weekend che da un po' di mesi abbiamo iniziato a regalarvi con Pare dei Conti della Belva, e cioè Oscar Giannino che vi ringrazia del studio di Milano, Renato Cifarelli, Carlo Alberto Carnevale Maffè e Mario Seminerio. Eccoci qui, la compagnia al completo, per darvi un abrasivo inizio di fine settimana. C'era una volta, quando ero giovane, il Puntames, che era un aperitivo piemontese che appunto diceva c'è un punto d'amaro in mezzo. Noi siamo un po' così, siamo molto proclivi a farla tara nelle notizie economiche, finanziarie, poi in generale agli occhiali della propaganda. Ci piace parlare di numeri, chiamare tutti allo scrupolo dei numeri. Naturalmente siamo pronti anche a interpretarli secondo i punti di vista degli altri, però separando il rispetto dei numeri e quello che vogliono dire da poi il fatto che ognuno può interpretarli e metterci le bandiere che vuole. Allora, di che cosa parleremo in questa puntata? Per consentirvi di intervenire all'800240024, lo sapete, 3492386666 per gli SMS. Iniziamo come sempre con la rubrica del noto insostituibile Mario, dati aggiornamenti della crisi. Questa è la settimana in cui, fine settimana, Banca Centrale del Giappone, per così dire, accontenta le aspettative di chi vuole protrazioni a oltranza e nuove frontiere dei mari non tracciati nelle carte della politica monetaria non ortodossa. Quindi andiamo a tassi ufficialmente negativi anche in Giappone. Il Giappone però è un modello che piacerà molto a quelli che vogliono il ritorno alla liretta e alla svalutazione, però i numeri dicono che non funziona. E quindi vedremo che cosa i mercati si aspettano, cosa significa questa ulteriore spinta, che cosa può voler dire verso l'attesa che a propria volta la BCE a marzo faccia altri passi in questa direzione. C'è chi dice chiaro, a me è piaciuto molto un articolo di Martin Feldstein comparso ieri, il QE della BCE oramai è arrivato, nel senso che non potrà mai ottenere gli obiettivi della Fed, e quindi i governi farebbero meno a non farvi troppo affidamento. Però questo lo vedremo. Dopodiché inizia una riflessione sulla novità della settimana, visto che martedì sera c'era stato l'incontro e l'accordo tra il nostro ministro dell'economia, il nostro governo e la Commissione europea per il meccanismo attraverso cui sgravare gli eccessi di credito deteriorato nei bilanci delle banche italiane. Il mercato ci ha capito quel che ci ha capito, quel che era possibile capire da due successive note, e ha dato il suo giudizio. Bocciato! Non perché funzioni in un certo tipo, ma perché è inutile. Bocciato perché è inutile, esatto, dai, perché rispetto a come il governo la montagna del MEF ha partorito una nutria, ma che dico, un cricetino che gira hai ragione, un cricetino che gira sulla rotellina. Allora, vedremo anche questo. Tra l'altro, mentre noi andiamo in diretta, c'è il grande appuntamento annuale del Forex a Torino, quindi vedremo se ci sono novità, perché interviene il governatore della Banca d'Italia. La Banca d'Italia ha praticamente bocciato l'accordo che il governo ha sottoscritto martedì, quindi viviamo in un contesto veramente difficile da capire. Resta, come avrete capito, anche il matrimonio che il governo tenta di officiare accelerando intorno al Monte dei Paschi, che è la punta sanguinante del sistema bancario italiano. Gli è andata storta il tentativo di convincere banche italiane questa settimana a prenderselo, però sullo sfondo c'è anche questo, quindi se siete preoccupati per la vostra banca telefonateci, noi ne parleremo anche con ospiti. Infine è la settimana anche dell'annuncio tonitruante: una volta al mese un grande gruppo multinazionale viene messo nel mirino di qualche procura italiana e viene annunciato che finalmente pagherà le tasse che fino a quel momento non pagava, e noi ci interrogheremo. Ma ha proprio senso che siano le procure, i magistrati penali a tentare di scrivere come si calcolano le basi imponibili di imprese multinazionali, o non bisognerebbe invece seguire la via di regole appunto internazionalmente definite dall'OCSE, dall'Unione Europea? Comunque sentiremo anche su questo il nostro professor Dario Stevanato. Voi chiamateci, mi raccomando, per sia che vogliate sapere novità. Tra l'altro avremo l'ABI all'inizio della trasmissione, perché con l'ABI torneremo sul punto più 97% mutui immobiliari. Vediamo se è vero, è diventato il nostro cavallo di battaglia Battaglia e di Mario in particolare, e avremo con noi il vice direttore generale dell'ABI con cui discutere di questo più 97% con cui siamo tornati in settimana sull'argomento. Però detto tutto questo, giro di tavolo, che cos'altro oltre a questo vi ha fatto arrabbiare, Mario? Allora, io questa settimana ho scoperto con raccapriccio e disgusto che in Italia, questo non è un tema strettamente economico, è un tema di civiltà, che in Italia quando un soggetto affetto da autismo raggiunge i 18 anni di età, per la burocrazia di questo ridicolo paese questo soggetto guarisce. Detto in altri termini, i suoi familiari, ovviamente i suoi familiari, devono rifare tutta la procedura burocratica per ottenere l'indennità di accompagnamento, che viene sospesa, poi viene recuperata cumulativamente, ma nel frattempo viene sospesa per un arco di tempo che può essere non breve, e per rifare e per ottenere tutti quei benefici, ad esempio quelli della legge 104 per i familiari e quant'altro. Perché? Evidentemente io non lo so perché, cioè c'è qualcosa di intrinsecamente ributtante, diciamo, in questo modo di fare burocrazia in questo paese, per cui e questo è un invito, diciamo, a chi di dovere, visto che stiamo facendo tutte queste incredibili riforme strutturali e quant'altro, no? Cerchiamo magari per una volta di evitare di tenere in piedi un simile abominio, perché sarebbe bello, diciamo, se parlassimo di una patologia che al compimento del 18° anno svanisce, però le cose non stanno in questi termini, per cui cerchiamo di fare uno sforzo di civiltà a chi di dovere, in mezzo a tutte queste roboanti riforme che stiamo facendo. Alcune di elementare buonsenso. Esatto, e poniamo fine a questo sconcio, perché io non pensavo che si potessero toccare livelli così assurdi in questo paese. Perché la regola viene dal fatto che la presunzione generale è che a 18 anni c'è la verifica se sei ancora a carico del tuo vecchio nucleo familiare o se lavori. Questo la dice lunga su com'è il criterio che si applica a situazioni di questo tipo. Beh, se tu fai conto che io conosco un falegname che, come molti falegnami, purtroppo ha qualche mancanza di dito, perché ogni tanto li lasciano sotto le seghe circolari, e fa la verifica ogni 5 anni se gli sono ricresciute le dita. Cioè, ricresciute, sì, evidentemente se gli sono ricresciute, perché deve fare la verifica dell'essere senza dita. Quindi vabbè. E invece, caro Alberto? Ma mi ha fatto molto piacere invece che finalmente l'Italia ha capito che la tecnica del braghettone di cartongesso per oscurare l'estate è una cosa che paga alla fine, ragazzi. Un po', esatto, un cappottino d'abete vuol dire 17 miliardi di commesse, no? E dal mio punto di vista questa è un po' la metafora del governo, cioè copriamo la nuda realtà, perché altrimenti si scopre che appunto è anche il re nudo. Allora meglio coprire anche il David, almeno nessuno si offende. Ma sai che il governo ha detto che lui non c'entra niente, è una funzionaria che va in pensione prima, la quale ovviamente invece è un soggetto astruso. A questo punto io propongo di oscurare anche le partite del Milan, perché almeno quando viene il premio spagnolo, quindi non c'è da vergognarsi, e celebriamo la bontà e la bellezza del gioco del Barcellona. Il premier è della Fiorentina, potrebbe essere d'accordo, non credo che ci rimetta troppo. Sì, però Oscar lo dico con sofferenza, lo sai. Lo so, figuriamoci. Io penso che questa settimana abbiamo fatto diverse figuracce. Non ho capito ieri la stampa italiana che ha pompato questo vertice con la Merkel. I titoli di ieri mattina sui giornali erano incredibili. Cioè, ho contato 4 titoli tra i maggiori quotidiani italiani che parlavano di battaglia. E poi c'era il quinto che parlava di guerra. Certo. Ieri dalla conferenza stampa io vi invito a riflettere. Oggi è vero che Maria Teresa Meli tenta disperatamente però la minaccia su Schengen, titolo di Maria Teresa Meli. Detto questo, la guerra io non l'ho vista, cioè questo riorientamento su questa fiera posizione italiana del futuro dell'Unione Europea io non la vedo. Vedo un paese che sta anche sui 300 milioni alla Turchia dicendoci li date anche a noi. Allora, se questa è una bandiera di reindirizzo dell'Europa su regole nuove e non di, posso dire, poco dignitoso mendicare, ecco, lo lascio a voi giudicare. Però questo è stato il segno di questo incontro con la Germania, annunciato come una specie di incontro di Monaco che doveva decidere se c'era la guerra o meno. A me sembra una cosa abbastanza trascurabile. Io ho visto stamattina una sovraimpressione: vittoria di Renzi o pareggio? O pareggio, sì. Ecco, cioè, spezzeremo le reni a Berlino. Va e poi, bene. E questo prendersela col povero Juncker. Ma vi prego, io sono per creiamo un'unità per la salvaguardia di Juncker. Certo. Perché è una specie in via di estinzione. E poi scusate, ma se l'onorevole Pittella è veramente convinto che il Partito Socialista Europeo toglierà la fiducia a Juncker in nome per conto del Partito Democratico Italiano, se la faccia passare. In ogni caso, la cosa che mi ha fatto niente di più questa settimana, ve la dico fuori dai denti, è stato questo rimpastino, cioè il giorno prima dei Family Day, dare un bel po' di poltrone al signor Alfano e ai suoi. Perdonate, vado al dunque, ma questa è la sostanza di un modo. Io ho ritwittato ieri un presidente del Consiglio, non ancora, era appena diventato segretario del PD, Renzi, che alla sua prima segreteria diceva: Letta vuole fare un rimpastino per andare avanti, ma noi, io sono contrario al rimpastino, perché i governi che contano davvero non fanno così. Questo l'ha detto nel gennaio 2014. Ciascuno che può riflettere, rifletta. Torniamo tra un minuto. Fratelli d'Italia, l'Italia l'è mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte. Della belva. Eccoci qui tornati in diretta dagli studi di Milano Radio 24, i conti della belva in questo sabato 30 di gennaio. Mi si è bloccato, ah ecco, per fortuna il computer mi si è sbloccato, e sigletta del nostro. Sto vivendo una crisi, c'è sempre ogni volta che qualcosa non... Eccoci qua, il nostro consueto appuntamento con Mario. Un tempo dicevamo Mario Asminiero in crisi, ma non è così, non è così. Posso chiedere a tutti, prima di andare poi con il nostro ospite dell'ABI tra pochissimo, un rapidissimo giro di tavolo intorno a questa novità, Banca Centrale Giapponese questa settimana. Come la interpreti, Mario? Non riesco a capirla molto, perché il rischio... Allora, la Banca Centrale Giapponese ha abbassato i tassi sui depositi a meno 0,10, però solo sugli acquisti futuri, sulle riserve libere delle banche commerciali presso la BOJ. Questo vuol dire che ancora per molto tempo il tasso medio delle imprese per i depositi liberi presso la Banca Centrale rimarrà lievemente positivo. Il rischio qual è? Che i mercati pensino che la BOJ ha finito le munizioni, cioè che questi 80.000 miliardi di yen di acquisti siano un tetto non superabile. Quindi io non so, sinceramente, a me pare che la Abenomics sia abbastanza arrivata, nel senso che i dati, ad esempio, di vendite al dettaglio, spese dei consumatori, eccetera, fiducia delle famiglie restano depressi, vendite al dettaglio ancora in calo. Perché? Perché hanno creato un'inflazione da costi facendo deprezzare la moneta, e questo ha colpito pesantemente in primo luogo i pensionati. Il Giappone è un paese, come sappiamo, molto anziano. Poi le aziende non hanno aumentato la paga base, perché diciamo non era il caso, l'hanno vissuto questa come una sorta di beneficio pro tempore, e quindi hanno eventualmente aumentato i bonus. Ma la verità è che il sistema del mercato del lavoro giapponese è fatto di precarietà. Quindi ci sono un sacco di piccole e medie imprese che sono terziste delle grandi conglomerate multinazionali, che non hanno i bonus e queste protezioni, diciamo, sindacali e di impiego. E quindi qual è la morale? Che la prima pressione inflazionistica che c'è stata per il deprezzamento dello yen ha portato via potere d'acquisto. E questo ha, per certi aspetti, depresso la popolazione, ampie fasce della popolazione, e ha danneggiato le piccole e medie imprese terziste che comprano le materie prime dall'estero e le pagano di più. Per me, cioè, il problema resta in piedi. Il Giappone è un paese in cerca d'autore, con seri problemi demografici che in parte risolveranno con una fortissima automazione e tecnologia, ma forse non basterà. Per me il problema del loro stock di debito lo risolveranno, che prima o poi lo monetizzeranno, nel senso che quello che è in pancia alla banca centrale sparirà lì. È il sogno di quelli che dall'Italia da sempre indicano il Giappone come modello: tornare a una piena monetizzazione del debito, in realtà assumere il grande patrimonio in via di iniziale erosione delle famiglie italiane come il grande scudo di garanzia del debito pubblico italiano. Questo è quello. Se i cittadini però non si spaventano a vedere monetizzato il debito, ai cittadini basta dire che quella è la via per il recupero della sovranità italiana. nazionale, ah, per non farsi, capito, ecco. No, io parlavo dei giapponesi italiani, sai, ecco. Passano attraverso tali e tante idiozie che sicuramente non si spaventano gli italiani. Appunto. Se invece, secondo me, è l'inizio della fine della gloria delle banche centrali, perché a questo punto veramente sono finite le munizioni, Mario. Per me questa è una mossa alla Enrico Toti, cioè posto che hai finito le munizioni, cosa fai? Tiri la stampella dei tassi negativi, e cosa pensi di fare? Posto che i tassi negativi non possono essere un dato strutturale dell'economia, su via, dai, ciò che si può vivere con i tassi negativi. Vero, però il loop per cui i mercati chiedono e aspettano di più è un loop da cui i banchieri centrali per il momento non danno segni teorici e pratici di volersi sottrarre. Cioè Mario Draghi è costretto a dire: a marzo farò di più. Ieri l'articolo che mi è piaciuto di Martin Feldstein, che diceva: guardate, cari governi, cittadini, imprese, contribuenti europei, il QE della BCE è sostanzialmente, per la conformazione del mercato e per la diversissima, molto più bassa, partecipazione degli europei ai mercati finanziari rispetto agli americani, ottiene risultati diversi da quelli della Fed. La Fed, sostenendo i prezzi finanziari, ha aumentato il reddito disponibile quando due terzi degli americani partecipano al mercato. Per gli europei quei tassi di partecipazione non ci sono, quindi intanto arriva molto meno all'economia reale. E quindi l'effetto del QE della BCE è molto limitato, si vede, l'inflazione non risale perché è in un contesto mondiale per cui da solo non ce la fai. Ragazzi, fatevi i vostri conti, probabilmente lui farà altro, ma i governi dovrebbero imparare a farne a meno. I governi invece ne vogliono di più. Noi abbiamo, perdonate se ve lo dico, un problema. Banca d'Italia, che è alla testa del movimento di chi in Italia dice che bisogna ottenere molto di più, bisogna mutualizzare tutto, bisogna cambiare le regole, ha ripetuto questa settimana che no al bail-in, no all'accordo di martedì su lo smaltimento dell'eccesso di crediti deteriorati negli attivi delle banche italiane, perché ha detto che è un errore, l'ha detto 24 ore dopo, è un errore rifiutare maggiori garanzie di Stato. È la Banca d'Italia che lo dice in Italia. Questo l'ha detto Panetta, no? Che ha detto: io non mi scandalizzo quando si parla di garanzie pubbliche sulle banche. Viviamo in un paese in cui è inutile che facciamo finta di niente, nel senso che noi la pensiamo così, ma siamo minoranza assoluta, ragazzi. Questo è bello, perché l'Accademia, i giornali, ripeto, la Banca d'Italia, vorrà dire che siamo forse noi a non capire. Due datini, il PIL americano ieri, vero, 2,4% anno, ma con quarto trimestre molto infrenata. Guardate che a trainare i consumi americani per fare 2,4%, se andate a vedere le voci, ieri ho perso un po' di tempo a farlo, la voce che aumenta di più nei consumi, quindi a sostegno della domanda domestica americana, è di gran lunga la spesa pubblica e le tasse per l'Obamacare, che cresce di quasi 100 miliardi di euro in più come spesa rispetto al 2014, e che supera di più del 50% qualunque altro aumento di voce nella spesa domestica americana. Questo per capirci, è una crescita, ma all'europea. Poi andate a vedere il bilancio dei ieri questo Bloomberg ha pubblicato un bilancio di dove stanno andando i soldi nei mercati, quindi ha chiesto ai 20 maggiori fondi americani attivi sui mercati internazionali, e negli ultimi 6 mesi il segno era impressionante, perché fuga nei saldi netti per oltre 50 miliardi di dollari americani dal reddito fisso, ok, e questo ci sta, aumento non troppo significativo, poco più che simbolico, per 7-8 miliardi di dollari nel saldo complessivo dall'equity, ma per il resto money market, cioè tutto sui fondi monetari per centinaia e centinaia di miliardi di dollari. Che altro fare in un momento come questo? Ecco, questo è il segno, non è che è un segno di una ripresa esaltante dovuta al successo del QE. Tutti quelli che dicono col QE riparte con gli investimenti nell'economia reale, questi sono i dati intorno a noi, però questo è lo sfondo. Quindi interroghiamoci sul ruolo delle banche centrali, perché questo è il momento per farlo, perché finita l'illusione dello Stato che cura i mali, l'illusione abbiamo trasferita sulle banche centrali, con l'idea che la politica monetaria possa risolvere mali che gli stati nazionali non riescono più a risolvere. Questa conclusione di Feldstein ieri. Esattamente, e l'illusione deve passare, perché la manipolazione distorsiva della moneta alla fine produce più danni che poi sul breve ha senso, tant'è vero che quello che fanno le BCE, la BCE è intervenire sui tassi sul breve, ma quando quella corda è troppo corta, l'effetto che hai è quello di manipolare i forex, manipolare quindi il tasso di cambio esterno, sperando di scaricare sugli altri. Questo è profondamente diseducativo e secondo me emergerà un trend in cui ci libereremo finalmente di questo potere monopolistico, fammi dire, distorsivo dei banchieri centrali, che non sono più neanche, capisci, politici eletti. Basta illusione la tua. No, non è un'illusione, invece guarda che vedrai che la gente si renderà conto. Io sono che... d'accordo, però ecco, temo che sia meno dietro l'angolo. Per il momento i governi li invocano per risolvere i loro problemi. Si stanno scavando la fossa nel medio-lungo termine. Nel medio-lungo termine sono d'accordo. Comunque secondo me, posso dire, sarò anche provocatorio, mi darete di quello che ha sposato l'ipotesi della stagnazione secolare. Secondo me in questo momento nei paesi sviluppati i tassi reali non sono positivi, ma sono molto bassi, prossimi allo zero, a prescindere dalle banche centrali. Io non vedo un contesto di tassi reali positivi. Effettivamente è la tesi Larry Summers, come è noto, da qualche annetto. Per cui è una lettura strutturale, non nel breve, dei problemi da affrontare e quindi del fatto che il tasso di interesse naturale basso, addirittura negativo, sia coerente con tassi di crescita, se vogliamo, sostenuti per un orizzonte medio-lungo. Questo è il fondamento di questa maniera di leggere alcuni problemi strutturali dovuti a bassa resa rispetto all'immaginato degli investimenti tecnologici. Io questo sono un po' scettico. Problemi strutturali demografici, e questi ci sono. Beh, e così il problema via. Più grosso in questo momento, secondo me, è quello demografico. Sono tutti elementi che concorrono a questa osservazione che faceva Mario. Che infatti, all'interno chi ha messo di una, peggio? Il Giappone, l'Italia. L'Italia ha perso 150.000 persone nel 2015, cioè come se fosse sparita una media città, pronti via dal nulla. Una cosa molto rilevante. Ah, no, perché nel medio-lungo periodo la nostra è una demografia disastrosa. Se posso fare un'obiezione, per me la media può anche darsi ragione tu, ma la varianza del tasso reale interesse non è proprio zero, amico mio. Quindi, secondo me si è allargata, si è polarizzato lo spettro dei rendimenti. Andiamo a fare una. Perché mentre l'economia prima era più compressa, tutto sommato c'era meno varianza, adesso c'hai molta polarizzazione di investimenti ad altissima scala, le tecnologie sono questi, e invece cose che non reggono più. Quindi può darsi anche che si sia intervenuti proprio sulla varianza, si è molto disperso il rendimento del capitale. Ok, io vi chiamo all'argomento però della settimana di cui dobbiamo parlare. L'argomento della settimana è ricicciato, scusate il termine un po' troppo popolare, l'aumento del più 97% dei mutui. E allora, siccome è un... Questo è quello che dicono, l'aumento del 97%. Esatto. Allora, noi abbiamo, siccome, e li ringraziamo per questo, perché si sono resi disponibili con noi, perché li abbiamo pizzicati più volte dalla nostra trasmissione, dall'ABI, ci hanno chiamato dicendo: guardate, cerco anche questo dato, però fateci parlare anche a noi in trasmissione. E allora noi ringraziamo molto perché abbiamo il vice direttore generale dell'ABI, Gianfranco Torriero, collegato. Buona giornata e grazie di essere con noi. Buongiorno. Tra l'altro grazie anche perché è al Forex e quindi si sta perdendo qualche minuto di programma, perché è l'appuntamento annuale del mondo della finanza italiana più importante. Allora, lei lo sa che con Mario Seminerio e noi ci divertiamo sempre sul dato come era stato dato, a confrontarlo con lo stock totale dei mutui e a dire: beh, un conto sono i flussi, altro sono gli stock. Ma ci sbagliamo secondo lei? Allora, noi confermiamo ovviamente tutte e due le cifre che diamo mensilmente, perché noi anticipiamo i dati sulle nuove erogazioni, quindi deve essere chiaro che sono i nuovi mutui. Perché diamo l'informazione sui nuovi mutui? Perché se uno leggesse solamente il dato relativo agli stock, questo è fortemente influenzato con le erogazioni avvenute anche 20 anni fa. Allora, il dato di anticipazione permette di cogliere l'inversione di tendenza. È un dato che abbiamo iniziato a diffondere nel corso del 2014, proprio quando abbiamo colto questa inversione di tendenza, e quindi anche per dare un segnale di questa inversione di tendenza, significa un inizio di ripresa del mercato dei mutui. Oggi, con l'ultimo dato ufficiale pubblicato a novembre scorso, questa inversione di tendenza è colta anche dalla dinamica degli stock, nel senso che a ottobre-novembre del 2015 rispetto al corrispondente periodo del 2014 iniziamo ad avere un segno più anche sugli stock. Però ecco, l'elemento importante è il valore segnaletico dell'inversione di tendenza che nel corso degli ultimi, tra il 2012 e l'inizio del 2014, era un mercato, quello dei mutui, che era veramente stagnante, mentre invece sostanzialmente da marzo-aprile del 2014 si è iniziato a vedere un'inversione. È ovvio che questa inversione è determinata da più fattori. Il primo è sicuramente il livello basso dei tassi di interesse, tant'è che all'interno di questa crescita circa un terzo delle nuove erogazioni è determinato dall'esurro, quelle esurro che sono i passaggi da una banca all'altra del mutuo, quindi di fatto non è totalmente un nuovo mutuo, ma è solamente in termini di stock non c'è variazione. Ecco, questo è per puntualizzare, ma è un'informazione che diamo anche sempre all'interno del nostro comunicato stampa. Buongiorno, sono Seminerio. Io volevo chiederle, la variazione in aumento degli stock, quindi negli ultimi 12 mesi, se non ricordo male, è attualmente più 0,5%, sì, giusto? Più 0,5%, infatti, perché ovviamente i mutui, dato che quando vengono valutati in termini stock, ci sono anche quelli che naturalmente si vanno ad ammortizzare, cioè vengono rimborsati, certo. Perché quando qualcuno contrae un mutuo, poi il rimborso avviene in parte in quota capitale, in parte paga gli interessi sul debito residuo, e quindi il mutuo, appunto, è importante leggere insieme le due informazioni, sì. Proprio perché se noi leggessimo solamente le informazioni sullo stock non coglieremmo in modo immediato anche l'inversione di tendenza che esiste sul mercato, perché risente nettamente degli andamenti pregressi. Ma la stessa cosa potrebbe avvenire nel momento in cui ci fosse un'inversione alla diminuzione, perché rimarremmo con l'illusione che il mercato cresce, mentre invece è solamente un effetto ottico del trascinamento delle erogazioni precedenti. Ecco, allora possiamo dire, visto che ci stiamo muovendo, io mi sono andato a guardare i dati e vedo che la variazione dello stock di mutui nelle varie fasi del ciclo economico è abbastanza contenuta. Possiamo ricordare agli ascoltatori quale e quando è stato il punto di minimo del valore degli stock e la contrazione? Cioè quando è stato? 2011-2012? Allora, in termini di stock nel 2013, mm-hmm. mentre la contrazione in termini di flusso è avvenuta nel 2012 sostanzialmente, cioè appunto la dinamica dei flussi delle nuove erogazioni coglie in anticipo poi quello che avviene sugli stock. Proprio per questo è utile leggere entrambe le informazioni. Benissimo, allora mi pare che abbiamo un'esigenza di tempo. Benissimo, allora riprendiamo a brevissimo. Perfetto, ha detto entrambe, entrambe, non solo i flussi però. Sì, come? Sì. No, perché noi vediamo, no, no. Vediamo i flussi nei titoli, comunque tra un minuto torniamo. Della belva. Eccoci qua, i compari di Conti della Belva sono tornati, hanno come ospite il vice dottore generale dell'ABI Gianfranco Torriero, insieme al quale stiamo tentando di farvi capire che quando vedete più 97% mutui immobiliari è un dato che si riferisce alla tendenza all'erogazione del nuovo rispetto a prima, capite? Non è come invece vi fanno capire, e voi, ma la maggior parte voi capisce, però raddoppia quindi lo spessore, la quantità del mercato dei mutui immobiliari. Non è così. Allora, Mario. Sì, allora è importante che la stampa faccia il proprio mestiere, perché questo non è cosa che deve fare l'ABI, credo, no? Cioè, la stampa non può fare titoli del tipo più 97% i mutui, no, più 97% le erogazioni di nuovi mutui negli ultimi 12 mesi. Facciamo questo sforzo, altrimenti non ne usciamo più. Altrimenti il Presidente del Consiglio si dice che è stato il Jobs Act, e quindi sinceramente non se ne può più. Poi, altro punto che era uscito ed emerso proprio da quel mio post a cui il dottor Torriero, in nome dell'ABI, aveva replicato, questo forte aumento dei prestiti personali, che sembra essere anche per certi aspetti alla base di questo piccolo boom di credito in Italia, ribadiamolo, i prestiti personali sono aumentati in maniera così significativa negli ultimi 12 mesi perché tre grandi banche italiane hanno portato in casa le rispettive società di credito al consumo. Questo ha fatto sì che i dati dei prestiti personali di queste società venissero contabilizzati nel sistema statistico della Banca d'Italia. E lì si è prodotto l'aumento del totale dei prestiti alle famiglie, che ha dato questa grossa spinta al totale dei dati e che è invece un'illusione ottica, perché si è prodotta a giugno dello scorso anno, pertanto l'avremo fino a giugno, a luglio di quest'anno uscirà dalla serie e potremo capire meglio come stanno le cose. Per quanto mi riguarda, siccome la cosa diventa anche stucchevole a livello di discussione pubblica, perché un paese che si impianta su questa cosa dei mutui veramente è un paese che ha dei seri problemi, io dico questo: l'aumento complessivo del credito alle famiglie è in linea con quello che ci si dovrebbe aspettare in una fase di lieve ripresa congiunturale. Quindi so che questa è una frase di una banalità disarmante, no, non faremo titoli e quant'altro. Ci tocca sempre ripeterla, perché però questo è il criterio, esatto, di lettura dei dati. Qui, italiani, insomma, non si, esatto, può neanche più da qualche anno usare il termine sobrietà, come sapete, perché è caratterizzato emotivamente, politicamente. Certo, però, da un Loden. Vorrei, esatto, questo Loden, appena uno parla di sobrietà, compare un Loden verde all'orizzonte. È un cagnolino anche, e tutti ce lo passiamo, esatto, come le prinze. Però ecco, un minimo di sobrietà anche nell'analisi dei dati va non bene. Guasterebbe. Intanto noi però ringraziamo della cortesia e della precisione con cui Torriero e Labi ci consentono anche di spiegare ai nostri ascoltatori che, come vedete, romperemo le scatole sì sulla precisione dei criteri, però è fondamentale, il nostro mestiere è quello. Grazie a Torriero e Labi. E adesso giriamo pagina però, cari ragazzi, perché dobbiamo in 5 minuti dire che noi siamo tra i pochi sorpresi del fatto che i mercati abbiano giustamente bocciato, dato un giudizio, insomma, non positivo sul GACS. GACS che prima è di lo tutto schema propongo, di accordo. No, propongo al ministro di adottare un consulente per la definizione degli acronimi. Non è possibile. È l'acronimo, no, del GACS, no, dai! Ma insomma, uno sforzettino con un grande capacità. Ma non dire GACSate! Ma su! Il mondo secondo GACS, quel famoso romanzo che ha fatto il film con Robin Williams. Dopo. Comunque, ragazzi, un anno e mezzo a menar la torta che l'Italia aveva la grande trattativa in corso. L'Italia che non aveva mai avuto problemi, perché aveva i bilanci italiani, erano più solidi, i più luccicanti, i quelli meno desiderosi e necessari di aiuti di Stato di tutto il mondo, non di tutta Europa. I cattivi tedeschi, loro sì, facevano andare il torchio monetario per le loro banche, ma noi non avevamo bisogno. I migliori banchieri, per niente imparentati con la politica, del tutto alieni da qualunque compromesso di indegni affari e di credito dato solo agli azionisti e ai parenti degli azionisti. Ecco, questo è quello che mi ha raccontato per anni. Poi abbiamo raccontato che c'era finalmente la Commissione Europea, si abbassava le braghe di fronte al fatto che eravamo diventati un problema sistemico, perché la settimana precedente avevamo fatto spaventare l'intera Europa e quindi bisogna dargli gli aiuti di Stato per le banche italiane che ne hanno un po' bisognuccio. Alla fine, cari ragazzi, tentiamo di spiegare Mario Seminerio Spero che i nostri ascoltatori abbiano capito come funziona questo accordo, però ribadiamoglielo in pochi passaggi. E qual è il suo, diciamo, non punto debole, sul fatto che però gli aiuti di Stato, in realtà, se non ci devono essere, si va con crediti di mercato, risiamo a bomba rispetto al problema italiano. Cioè, il GACS non elimina la necessità di aumenti di capitale, cari azionisti delle banche italiane. Anzi, toglie qualsiasi scusa a questo punto, siccome non ce n'è più per nessuno. L'ultimo metro è partito e questo è l'ultimo sforzettino. Non è vero, perché la trattativa è ancora aperta, perché quando sarà chiaro quello che ai mercati è chiaro, vedrete che qualcuno dirà che bisogna ricambiarlo, fior di economisti italiani lo sosterranno, la Banca d'Italia l'ha già sostenuto. State attenti a questa roba qua. State attenti, perché io non darei per chiusa la partita invece. Però insomma, in buona sostanza, Mario, allora, ieri in una conference call non pubblica, ma insomma la Banca d'Italia ha detto è un processo che andrà avanti per diversi trimestri, perché bisognerà formare, a questo punto si capirà se una o più banche insieme formano i veicoli speciali a cui dare le tranche di credito deteriorato. Le banche cattivelle, possiamo dire, le non proprio cattive, ma sono proprio un po' discole. A quel punto il meccanismo di mercato attraverso cui si capisce il prezzo della garanzia pubblica sulle tranche garantite dallo Stato, che sono quelle con i migliori collaterali. Ah, vogliamo, no? Solo il filetto. Lo Stato le paga tranche, solo il filetto. Sì, i ciccioli te li tieni tu. È un meccanismo per cui si fa per classi analoghe di rating ammessa all'agenzia di rating, però per classi analoghe a cui non partecipano solo questi veicoli speciali delle banche, ma partecipano emittenti anche non bancari, cioè utilizzeranno praticamente, per esempio, le grandi multi utility pubbliche, certo, quotate, eccetera, eccetera, per abbassare il CDS. Sì, sì, questo intendono fare. Questo intendono fare. Lo hanno dichiarato. Paniere per la media. Esatto. È un paniere. Devono ancora trattare su questo. Questo per dire che la trattativa è ancora aperta con Bruxelles. Quindi tenteranno di trattare un panierone dove il CDS e il prezzo della garanzia pubblica, che si calcola con questi panieri per analoga classe di rating e di rischio, viene un pochino più ampliato rispetto a quello bancario. A quel punto si arriva al meccanismo, al mid price, per fare il prezzo della garanzia pubblica. Ci siamo fino a questo momento? Okay. Senti, posso fare una domanda da uomo della strada? No, perché prima dovevo raccontarlo fino alla fine. Allora, a quel punto, cosa succede però, visto che la garanzia è solo sul pubblico? Che la parte del debito, del credito deteriorato delle banche, meno garantita, più impestata se volete, cioè le tranche che tecnicamente si chiamano mezzanine, quelle rimangano in carico alla banca. È così? Sì, sì, è così. È così. E se è così, a quel punto, quando la parte migliore esce, esatto, dal perimetro della bilancia della banca, il residuo fisso, diciamo, sul fondo del contenitore è quello più radioattivo. Tossico, quello più tossico. Quindi esatto, il CDS della banca, cioè quello che lo strumento finanziario quotato che misura la propensione al rischio, il default della banca, paradossalmente il giorno dopo che avviene questo, aumenta. Cioè che esce la parte migliore del credito deteriorato, quella con la garanzia di Stato, così va, è il CDS della banca emittente, non è che migliora, peggiora a quel punto sul mercato. Teoricamente sì. Teoricamente sì. E comunque a quel punto si rende necessario per la banca che ha ceduto la parte meno garantita dei suoi crediti deteriorati, accantonare del capitale per la sopravvenienza che deriva invece dal fatto che la parte peggiore se la tiene. È vero o non è vero? Le banche acquistano tempo. Esatto. Acquistano tempo per coprire le tranche più junior, quelle più rischiose con maggiori accantonamenti a rettifica perdite. Questo, le banche hanno bisogno di più tempo. Se la tranche senior esce molto piccola, il mercato capisce immediatamente che questa banca ha delle sofferenze di pessima qualità e la banca si crea da sola uno stigma. Scusate ascoltatori, so che è complesso, però stiamo parlando di cartolarizzazioni, c'è una tecnicalità, non tutti sono in grado, diciamo, di fare divulgazione nella migliore delle maniere. Alcune di queste cose ci lavorano da un quindicennio, come quello che vi sta parlando in questo momento. Se non riesco a farmi capire, chiedo veni anticipatamente. Io so, però confido, perché gli italiani sono eroi, santi, navigatori, architetti, ingegneri, criminologi ed esperti di cartolarizzazione. Questo di volta in volta si assume la specializzazione. Vabbè, però c'è un effetto di selezione avversa, paradossalmente. Cioè, questa operazione fa uscire allo scoperto le condizioni negative delle banche più in difficoltà. E quindi, paradossalmente, serve molto di più. Non la useranno. Però, come avrete capito, il problema resta. Gli aumenti di capitale non si eludono. Questo da un po' di tempo, da un orizzonte certo, consente di fare quattro conti su il capitale in eccesso in più che serve a chi si prende MPS, se riescono a convincere qualcuno a essere un po' meno del necessario, il capitale in eccesso che serve comunque, perché nel frattempo un po' di impestatura dei MPS si può risolvere così in un quadro pluriennale, però come vedete non è la bacchetta magica. Torniamo tra un minuto. Della belva. Allora, abbiamo tentato di spiegarvi come qualmente l'accordo con la Commissione Europea, che è un accordo ancora in via di perfezionamento su come si fanno i panieri per avere le classi di rating analoghe, su chi metterci in un veicolo bancario, sullo sconto fiscale che lo Stato si riserva di dare all'atto in cui dal perimetro della banca cedente escono delle tranche di crediti deteriorati, ma altre ne restano, perché questo ovviamente allevierà il conto economico e la Commissione Europea non ha ancora trattato, perché può riapparire l'ombra dell'aiuto di Stato con lo sgravio fiscale. Non sappiamo poi, cioè noi abbiamo un'idea ma non lo sappiamo, se è davvero la Banca Centrale Europea non vedrà estendersi la sua possibilità di comprare tranche anche di queste robe qua. La Banca Centrale Europea ora compra solamente le cartolarizzazioni, esatto, di prestiti in bonis, esatto, che hanno rating minimo A meno. Però questo è un altro tema che per me la Banca d'Italia ha posto sul tavolo. Con la garanzia per pubblica, esatto, è possibile, esatto, che si arrivi a questo acquisto. Quindi, ma scusami Oscar, se le tranche senior escono piccole, Cioè, se le banche ce le hanno piccole, le tranche senior, la Banca Centrale Europea non è di nessun aiuto ai fini pratici dell'alleggerimento dei bilanci dalle sofferenze. Esatto. Questo è il punto. Esattamente. Allora, ci rendiamo conto, un po' tecnico, però il motivo per cui i mercati hanno capito e hanno bocciato è questo qua. Il motivo per cui hanno l'affanno, perché devono risolvere a giorni, perché il rischio è che se i mercati prendono una brutta piega, come avrete capito, il rischio per il Monte Paschi, mi dispiace dirlo, è di non rientrare in quotazione. Siamo andati vicini a questo rischio in alcuni giorni di trattazione del titolo. Allora, il loro problema è che devono chiudere la parte di MPS a breve, se non a brevissimo, perché quella è la punta che sanguina proprio del sistema. Allora, detto questo, noi abbiamo chiamato una persona che leggiamo e che stimiamo da anni, il professor Umberto Cherubini, che insegna matematica finanziaria all'Università di Bologna, e che appunto è stato tra chi all'inizio, una volta che abbiamo capito come funzionava questo accordo con l'Europa, ha detto: beh, ma perché stupirsi che i mercati ne diano il giudizio che ne danno? Funziona così. Allora, buongiorno e grazie di essere con noi, professore, innanzitutto. Buongiorno a voi. Lei, posso fare una domanda fuori dai denti, non accademica? Sì. Come misura la sorpresa della distanza tra la polemica mossa anche dalle autorità del mercato italiano e da quelle bancarie per un anno e mezzo, ci serve la bad bank, ci serve la bad bank, ci serve la bad bank, poi uno va a vedere che nella realtà dei fatti aveva ragione chi li criticava, dicendo: guardate che le coordinate di un accordo che si può fare in Europa sono coordinate molto diverse da quelle che dite voi. È un problema di politica della comunicazione delle autorità italiane oramai distante dalla realtà, oppure è una maniera per tornare a trattare tra qualche mese di fronte ai risultati di un accordo che abbiamo tentato di spiegare, lei lo ha fatto anche all'indomani magistralmente, non può andare oltre una certa misura e quindi non risolve da soli certo i 200 miliardi di euro di credito deteriorato. Lei che pensa? Ma la prima che ha detto, cioè è un cattivo esempio di comunicazione e un cattivo accordo. La comunicazione migliore sarebbe stata lasciare il tavolo e dire: non si può fare. Non è, le due cose che volevamo fare qui con l'Europa non le abbiamo potute fare. Questa è l'Europa oggi, questi siamo noi oggi, questa sarebbe stata la comunicazione giusta. E invece ne abbiamo un'altra però, che pone a questo punto il sistema bancario in condizioni di torsione ulteriore, se posso così dire, ogni volta che aprono i mercati la mattina, e con l'incertezza se per caso tra poco non ci aspetta un nuovo giramento di tavolo, per così dire, visto che alcuni aspetti dell'accordo sono ancora da trattare. Lei pensa che alla fine andremo avanti semplicemente adottando l'idea che tanto vale più o meno lasciar fare al mercato e non aspettarsi grandi novità, oppure lei se l'aspetta comunque? Non mi aspetto niente dai miglioramenti al margine. Al margine, in particolare da queste voci di costruzione di ulteriori indici di credito che peraltro già esistono, ITRAX e quant'altro, e che il Ministero si mette a competere con il mercato per costruire altri indici di credito, mi sembra veramente veramente strano. Quello che non è stato fatto, il fallimento sta nei due punti fondamentali che il nostro rappresentante doveva portare a casa, e in assenza due punti fondamentali, lei dice la percentuale di abbattimento rispetto al nominale del credito deteriorato e il costo della garanzia. Sono due punti fondamentali. Primo, aiuto di Stato. Uh-huh. Non si può fare, va bene. Due, bad bank complessiva di tutti i crediti, perché questo è essenziale per smobilizzare i crediti, e questo è il motivo per cui tu chiami lo Stato. Esatto. Siccome le banche, parlavo l'altro giorno con un banchiere, nessuna banca si alza e dice: ok, venitemi tutti dietro, facciamo la nostra bad bank, mettiamo tutto insieme, andiamo sul mercato, eccetera. dovrebbe fare l'AVI ma non è in grado di farlo, potrebbe organizzare l'AVI ma non è in grado di farlo. Questo era l'unico compito dello Stato. Si poteva fare quando le regole erano diverse, quando noi criticavamo gli altri perché hanno usato programmi vincolati. Non è una questione di regole, perché se io aggrego è una questione tecnica. Ma sugli aiuti di Stato no, sull'ampiezza del veicolo per così dire un conto, ma sugli aiuti di Stato sugli aiuti di Stato ci portavamo a casa un no, va bene? Sull'aggregazione, l'aggregazione è essenziale per due motivi. Ora, uno un po' più tecnico è che se uno mette tutte le uova in questo caso tutti, aggrega tutti, tutti i titoli, non tutte le uova nello stesso canale, l'opposto, aggrega tutti i titoli, diversifica, e questo rende meno rischiosa la tranche senior, quindi lo spread della tranche senior si abbassa. Secondo punto, la tranche senior diventa liquida, come ho sentito, e invece questi rischi con i singoli veicoli di ogni banca aumentano invece che diminuire. Tanto grazie al professor Crobini, torniamo subito dopo GR. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS. E in video su radio24.it e su rds.it. Della belva. Eccoci tornati in diretta, 11:07, primi tre minuti eravamo fermi, ci eravamo fermati nella descrizione, un po' tecnica, non ce ne rendiamo conto, ci battiamo il petto del perché i mercati giustamente dicono, beh, è tutta qui la cosa che l'Italia ha menato per tanto tempo, con cui salvava il monte crediti deteriorati delle banche italiane. Vi abbiamo spiegato il perché non sarà così, del perché per quelle messe peggio in realtà significa rivelare prima ancora e più pericolosamente di prima il fatto che il più dei crediti è meno garantito di quello che sembra, quindi esporsi a un rischio maggiore, necessità che gli aumenti di capitale arrivino subito, se non c'è prima un cavaliere bianco con eccesso di capitale che copra la faccenda. Vi abbiamo spiegato che ci sono ancora punti aperti su cui bisognerà trattare, lo sgravio fiscale aggiuntivo al trasferimento del tranche di crediti deteriorati nei veicoli da parte delle banche cedenti, ma insomma, in buona sostanza, quello che è evidente è che il MEF tenta di dire buon accordo, Banca d'Italia ipercritica, e anche questo è un motivo di riflessione, Oscar, su quello possiamo, che ci aspetta. Prego. Possiamo alleggerire un attimo, restando in tema, qui c'è un SMS di una di un'ascoltatrice, aspetta che non lo trovo, ecco, vi chiedo di sforzarvi affinché anche chi ha la terza media capisca, altrimenti questa trasmissione diventa catabolica. Che è fantastico, però. Cioè, scusi, Cristina, complimenti, perché diciamo questo è un concetto di terza media che diciamo è un po' di terza media con la extension, nel senso è una terza media molto superiore. Però la catabolè degli ascoltatrici, certo, siamo parabolici noi addirittura, se posso. No, magari siamo, nel senso che facciamo le parabole un po' come Gesù Cristo. Le parabole come Gesù Cristo, vabbè. Ma a meno che, nel senso che dice che diventiamo dei residui da espellere, noi abbiamo un pubblico che dobbiamo ringraziare, perché è un pubblico paziente, è un pubblico minoritario, ma però è un pubblico che sa anche dirci, vabbè, adesso smettete. Maria Paola da Milano, per esempio, sentiamo Maria Paola che ci chiama da Milano e che è preoccupata. Perché è preoccupata, Maria Paola? Sono preoccupata perché ho sentito l'ultima boiata pazzesca, il Banco Popolare con la Popolare di Milano. Sarebbe una tragedia. È molto avanzata la trattativa. Scusi, perché sarebbe una tragedia? Spieghiamolo anche agli ascoltatori. Perché io nel Banco Popolare c'è una banca, che non posso dire il nome, ho fatto la situazione generale. E creda, vivo da parecchi anni, da quando hanno fatto quel fritto misto lì, la tragedia di quando si mettono assieme tutte queste banche popolari. Cioè c'è una banca che ha i suoi clienti da una vita, gliela tolgono, improvvisamente arriva una delle altre, no? E di conseguenza lì dentro c'è un paio di banche che non funzionano e non ho mai capito perché. E lì scappano tutti. Ecco, e io essendo vissuta quando la mia ex banca era la prima in Europa, io avevo un consiglio di amministrazione con i ricevuti, con i boroli, e mi ricordo che quando finiva il consiglio di amministrazione all'ultimo martedì del mese, tutta la documentazione andava alla Banca d'Italia. Ecco, mi domando sempre come faceva la Banca d'Italia a non sapere cosa combinavano tutte queste banche. Bella domanda, sì. Noi abbiamo delle opinioni in materia. Comunque questa è la memoria di una nostalgica dei vecchi tempi di Novara, per capirci che già di fronte all'estensione poi nel Banco Popolare ha avuto problemi. E devo dire però che la Novara come gestione è lasciamo perdere. Perdoni signora, perché bisogna ricordare le cose come sono andate. Io mi ricordo un paio di nomi della Popolare di Novara negli anni 90 che sono finiti in carcere, diciamo. Esatto. E dopodiché adesso il problema è ulteriore innesto, e qui ci sarà un'altra questione sullo statuto, vecchio statuto che però viene superato dalle novità della natura giuridica della quotazione, e che però c'era già prima. Però diciamo la Popolare di Milano era tra tutte le popolari quella col tasso di sindacalizzazione più elevato, però che ha portato il problema qui, poi caro Alberto queste cose le sa molto meglio di tutti noi, è un problema di omogeneizzazione di culture aziendali, aziendali. No, perché si metteranno assieme persone che hanno un retroterra, aspettative, sistemi di valori molto diversi, sistemi operativi, non solo questo è il problema. Anche l'IT, no? Sistemi informativi, eccetera, e quello sarà un bel problema. Perché la realtà è che tutti sono sfidati a un cambiamento del modello di che cos'è l'impresa banca, di come si tengono i rapporti con il cliente, disintermediare, diciamo, il capitale fisso troppo elevato in termini di costi, sulla capacità di dare reddito invece agli azionisti, cioè troppi mattoni, troppe agenzie, adesso devo dire una cosa terrificante, ma sono anche troppi dipendenti e così via. Parliamo troppo di finanza bancaria, parliamo poco di organizzazione, di vissuto, perché di relazione, perché invece saranno quelle le cose che sconvolgeranno il rapporto con i clienti. Comunque noi dobbiamo stare ancora fermi a questo monte di credito deteriorato che pesa sui bilanci, assorbe patrimonio, non viene risolto da questa che non è, come vedete, una bacchetta magica, se non che conferma che il fatto che l'Italia doveva pensarci prima, quando non ci ha voluto pensare, quando mi hanno raccontato che era tutto a posto, e adesso il problema resta ancora che è colpa degli altri, ma secondo me è colpa nostra sia prima che dopo. Andrea da Rovigo. Buongiorno a tutti. Sì. Io volevo darvi uno spunto di riflessione e volevo sentire il vostro parere su una cosa che penso, una riflessione mia. E ci dica. Allora, lo Stato, la pubblica amministrazione, mette i titolari nella posizione di sostituto d'imposta nei confronti dei loro dipendenti. Le imprese, sì. Mm. Tutti i dipendenti statali, di conseguenza, lo Stato è il loro sostituto d'imposta, cioè le trattenute e i contributi delle buste paga dei pubblici dipendenti in teoria hanno queste tasse che lo Stato versa a se stesso e controlla se stesso. Mi viene da ridere un po'. No, ma scusi, è il percettore finale, tant'è vero che quando si tratta di una partita di giro, classicamente per esempio i contributi, per anni, per decenni anzi, non sono stati versati e non sono stati incassati e non ce n'è neanche la contabilità, quindi se permette è una fizia. Ecco, lo so, ha ragione in questo, naturalmente anche questa è una formalità tecnica, però fa la sostanza. Il motivo per il quale di solito si dice no a fare un ricalco degli eccessi rispetto alle pensioni retributive pubbliche rispetto ai contributi versati, l'eccesso, dico come forbice, tra i contributi versati e il moltiplicatore a cui davano diritto delle gestioni particolarmente favorite dalla politica nel campo dei pubblici ex pubblici dipendenti, post telegrafoni eccetera eccetera, questa roba qua, una delle ragioni per le quali si dice no a chi chiede la cosa che ho appena detto è perché lo Stato, funzionando come ci ha ricordato il nostro ascoltatore, non ha le serie annuali per precise dei contributi versati ai propri dipendenti. E fa ridere? No, è la mara realtà. Solo negli anni 90, nel procedere degli anni 90, questo punto è stato messo in regola. Per il progresso non c'è. Alessio, da Reggio Emilia. Alessio, prego. Sì, buongiorno. Sono un bancario della provincia di Reggio Emilia e volevo porre, secondo me, una riflessione, insomma, sul modello banca, come avete detto prima. Sì. Cioè sul, secondo me, quello che secondo me è la morte del sistema bancario popolare. Perché? Io non faccio parte di una banca popolare, premetto, però se noi vediamo che i più grossi problemi in Italia sono dovuti appunto a queste grosse banche che hanno avuto una mala gestione dei loro crediti, io lo chiamo mala gestione in maniera, diciamo così, leggera, perché a volte c'era proprio del dolo, c'era proprio della collusione, pensando anche che questi 20 miliardi di sofferenze sono dovuti circa a 500 codici fiscali, diciamo così, 500 enti, a 500 imprenditori, sì. Ecco, questo secondo me è la morte del sistema popolare. Una testa, un voto, come ha messo, diciamo così, secondo me giustamente in discussione Renzi con il nuovo decreto, perché si è visto che una banca dove non c'è un padrone serio, cioè dove non c'è comunque qualcuno che ha le redini finali della gestione della banca, soprattutto dei suoi crediti, si creano intese collusive tra manager di lunga durata che si comprano assemblee di soci eccetera eccetera, si riempiono i clienti di titoli che, per cui si diventa soci in cambio del fatto che poi votano e si resta dove è, com'è, magari a valore di libro perché sono illiquidi e senza essere al mercato eccetera eccetera eccetera. Sì, sono d'accordo con lei su questo. Devo dire che attenti la prossima settimana, caro Alberto e caro Mario e caro Renato, siamo in attesa del disegno di legge, decreto legge dovrebbe essere sulle BCC. Le stesse analoghe considerazioni dovrebbero valere per le BCC. Ricordo a tutti che oggi si può fare la licenza bancaria per capitale per soli 5 milioni in Italia per sistemare di una BCC, e ci sono decine e decine e decine e decine sottocapitalizzata nei guai fino al collo e così via. Secondo me bisognava alzare molto significativamente la sbarra da fino a 50-100 milioni. Il sistema ha detto no, pare che tutti restano con la licenza bancaria, si fa una holding, vedremo con che poteri, vedremo. Però quello è l'altra faccia del problema. È l'altra faccia del problema. Però il fatto che il governo abbia rinviato, aveva promesso per questa settimana, e ha detto di no, per me non è un segnale di lucidità, però, perché voglio dire, è una cosa che doveva accadere secondo la fine dell'anno, hanno rinviato a gennaio. No, doveva arrivare a gennaio l'anno scorso quando hanno fatto la cosa sulle popolari. Quindi ma lì c'è la Banca d'Italia che insieme è alla testa del comitato di resistenza, però, che vuole far rimanere il più possibile le banche BCC così come sono, perché dicono, perché tanto fino a questo momento i nostri guai li abbiamo risolti da solo in maniera mutuataria. Questo è il loro punto di forza, e dicono quindi non ci venite a dire qual è la soglia minima per fare banca nel nostro paese. È così, ragazzi. Però le indicazioni regolatorie e di vigilanza delle BCE per questi prossimi anni veramente alzano l'asticella tantissimo in termini organizzativi, no? Di risk management. E la Banca d'Italia è contro anche a questo. Però capisci, aspetta, la mia osservazione è, per essere chiari, che la Banca d'Italia oramai si è messa alla testa di un partito politico che è quello che dice l'Europa così com'è non ci piace e siamo pronti a uscire. Io non lo dico per criticare, lo dico come osservatore. Però, per esempio, ragazzi, una cosa che io ho visto in tutta la parte del Confidi, che è un po' simile alle BCC, esatto, è stato ucciso. Cioè, i Confidi alla fine sono stati uccisi, perché quando tu cominci cominci a dire regole organizzative, tutta una serie di cose, perdi tutta la parte vecchia che era quella della. Io vi invito a riflettere: se il regolatore bancario italiano, che ha un certo peso nel nostro paese, inizia a parlare questo linguaggio, vuol dire che pensa che ci sia un'alternativa al fatto che con le regole europee muoiono le BCC, con le regole europee. Pensa che ci sia un'alternativa. Magari mi sbaglio io a interpretarla così. Io secondo me Banca d'Italia si stanno difendendo. Perché dopo il tasso di interesse perdono anche la vigilanza. Sì, secondo me stanno difendendo quello. Siccome dietro c'è tanta gente in politica che non per queste ragioni vuole fare alla giapponese. Perché, sì, ma io una Banca d'Italia no euro faccio molto fatica a vedercela. Io mica troppo ormai, devo dirvi la verità. Io mica troppo, perché le conseguenze delle prese di posizioni sulle regole per la risoluzione bancaria, per gli interventi sulla vigilanza, su come la BCE fa le comunicazioni, il no all'accordo di martedì, guardate che oramai è diventato. Hanno detto che ci hanno imposto il decreto di novembre sulle quattro banche, non ci hanno prodotto la prova, però voglio dire, è un profilo di conflitto molto elevato. Sì, sì, no, quello sì. Torniamo tra un minuto. Stringiamoci a coorte sensi della belva. Eccoci tornati in diretta a 11:20 primi 41 secondi. Lo so, oggi la parte bancaria è stata un po', tra virgolette, un po' troppo tecnica, cari ascoltatori. Però tanto non è finita la partita, per così dire. E, in settimana, gli ultimi giorni della settimana, c'è stata anche un'altra novità. I giornali sono tornati ad annunciare con grande enfasi l'Italia in prima fila per contestare l'evasione fiscale ai grandi gruppi internazionali, alle multinazionali, Google, centinaia di milioni e così via. Molte interviste, quasi tutti i quotidiani appartenenti alla procura di Milano, in particolare il procuratore Francesco Greco. Perché che cosa avviene nel nostro paese? Nel nostro paese avviene che su questo venticello molto forte del recupero dell'evasione fiscale, nei giorni in cui Renzi e la Orlandi, la direttrice dell'Agenzia delle Entrate, dicono superiamo il record degli incassi 2015, più di 15 miliardi rispetto a 14,2 miliardi di incassi di evasione del 2014, eccetera eccetera eccetera, allora le procure decidono di andare all'attacco e di contestare loro la base imponibile e quindi l'imposta dovuta all'Italia da multinazionali come Google. E la domanda che noi ci siamo posti è: ma possibile mai che in Italia, pur di far titolo, cioè, si deve sempre scatenare questa gara? Perché, dico pur di far titolo, abbiamo tentato di spiegare da mesi come questa storia del contestare l'imponibile alle multinazionali, che significa presupporre che loro abbiano quella che si chiama una stabile organizzazione ai nostri confini, deve passare per dei ruling internazionali, cioè delle regole condivise, e c'è un treno che è sul binario OX che sta avanzando, c'è un treno sul binario europeo che sta avanzando. Sì. Allora, detto questo, invece noi no. Noi mandiamo all'assalto le procure, che poi fanno gli ammazza sette con le interviste. Adesso questo è solo l'inizio, perché capiranno. Allora, domanda: cattivi delle multinazionali. Beh, però dai, se noi è meglio fare con i procuratori ammazza sette, lo dico con rispetto, perché uno magari può dire: ma se aspetti i ruling internazionali, no, questi continuano a non pagare le tasse. Oppure invece è una roba che crea danni invece che agevolare. Ecco, la domanda è semplice e secca. Io ho le mie opinioni, ma abbiamo con noi il professor Dario Stevanato, quindi uno che se ne occupa tecnicamente, per così dire, perché insegna diritto tributario all'Università di Trieste, e consegniamo a lui il quesito: meglio la via delle procure oppure meglio tentare di condividere qualche base giuridica, secondo lei? Grazie di essere con noi. Sì, buongiorno, grazie dell'invito. Diciamo l'ultimo caso di Google fa seguito a serie precedenti. Poco tempo fa c'è stato Apple, però il tipo di contestazione che si legge sui giornali per ora è la cosa che colpisce, proprio quella che avete appena evidenziato, cioè qui ancora non c'è l'intervento dell'Agenzia delle Entrate, che mi sembra che la stessa Orlandi abbia detto sì, che aspettava così, esattamente così, di leggere il verbale. Loro hanno mandato la finanza a fare un'indagine di polizia giudiziaria, loro aggiungono le conclusioni, dopodiché ne informano l'Agenzia delle Entrate. Esatto, ne informano l'Agenzia delle Entrate ed escono sui giornali notizie come se l'evasione fosse già acclarata e è un fatto certo. Vedo anche delle cose abbastanza strane, cioè ad esempio il tipo di contestazione non è la prima volta che viene contestata una multinazionale, una stabile organizzazione occulta, cioè forse il caso più noto degli anni 90 era quello della Philip Morris, quindi diciamo c'è una certa tendenza accertativa che si ripete negli anni, e qui un tema tecnico e non so fino a che punto possa interessare alla generalità del pubblico, però in due parole una stabile occulta non è il caso di chi ha una stabile organizzazione in Italia, cioè ha una struttura e non la dichiara, cioè la nasconde, ma è il caso di chi opera attraverso una società controllata e l'autorità fiscale gli dice che attraverso la società controllata lui aveva anche una stabile occulta, cioè lui piegava la casa madre estera, diciamo così, piegava i propri fini, deviava dalle funzioni normali il personale e i mezzi della società controllata a fini che hanno poco a che fare con l'attività gestionale della controllata, esatto, stessa, e invece sono da ricondurre direttamente in capo alla casa madre estera. Voi capite che qui non è una questione di quasi sempre non è una questione di fatto chiara, cioè ad esempio c'è uno stabilimento, ci sono delle persone che operavano che sono state nascoste, ma è una questone di tipo interpretativo, cioè fino a che punto tiene, certo, una contestazione di questo tipo. Anche perché poi molto spesso, lo abbiamo visto anche con le proposte di digital tax mosse in Parlamento, ma negli stessi criteri da cui partono le indagini dei magistrati c'è questa stessa base, diciamo così, di fondamento iniziale. Si parte da una stima del fatturato in Italia per dire, ah beh, a fronte di questo fatturato, ragazzi, voi per forza ci avete una stabilità da qualche parte. E questo resta un altro dei criteri che fa rimanere senza parole, Stefanato, no? Sì, dietro a contestazioni di questo tipo c'è un dato pregiuridico, cioè l'idea, la convinzione che se una società opera sul mercato italiano e qui fa affari, allora qui deve pagare le tasse. Purtroppo i criteri internazionali invalsi da un secolo non sono questi, cioè non si tassano i redditi delle multinazionali nel luogo di consumo, ma in quello in cui avviene la produzione. Qui quindi è tutto da dimostrare che i ricavi pubblicitari che vengono contestati a Google, a questo punto alla stabile occulta di Google Irlanda, siano stati prodotti attraverso una base fissa italiana, almeno di non vedere questa appunto base fissa nelle strutture della controllata, ma è una cosa che insomma sta a dimostrare, andrà vista. Qua peraltro segnalo un'altra cosa, che il grosso della ripresa fiscale non è nemmeno sui ricavi e sul reddito di questa presunta stabile organizzazione, ma su una mancata applicazione di ritenute su royalties. Esatto. Che addirittura sembra che contestino che le royalties pagate a una società olandese non erano in realtà destinate ad essere, come dire, a finire nell'olandese stessa, cioè che non era il beneficiario finale, ma a sua volta venivano ripagate ad una società alle Bermude, in un paradiso fiscale. Quindi probabilmente no, ma perché la presunzione del magistrato è di calcolare la parte di reddito, quota di mercato derivante dall'utilizzo di intangible, cioè il brand, contestando il fatto che quell'intangible è allocato nell'organizzazione dei perimetri dell'impresa multinazionale, laddove questo non contribuisce a generare base imponibile e quindi imposta in Italia, dovuta in Italia. Cioè questa è la base della contestazione. Beh, per quello che riguarda così, l'intangible, cioè, allora sarebbero addirittura delle royalties figurative, quindi ancora esatto, peggio, cioè avrebbero ricavato le royalties in realtà non previste contrattualmente, ma esattamente da criteri economici veramente vaghi e opinabili. Ecco, io devo ringraziare la precisione e la chiarezza con cui il professor Stefanato contribuisce a farvi riflettere, cari ascoltatori, perché anche qua siamo in presenza di facili titoli molto gridati, molto ricercati da chi fa queste indagini, che vi dicono: abbiamo finalmente messo all'angolo, al muro, questi ladri internazionali di Google che ci sottraggono centinaia di milioni, e poi se li sommiamo ad Amazon, Facebook, eccetera eccetera, miliardi di euro sottratti al fisco italiano. La realtà è che gli strumenti con cui noi eleviamo queste contestazioni sono veramente molto discutibili, e poi in ogni caso più lo facciamo, adesso questa è la mia valutazione, sentiamo cosa ne pensa Stefanato, più lo facciamo con indagini penali di incerte basi giuridiche, più allontaniamo la possibilità, certo, di ruling condivisi internazionali. Stefanato, o no? C'è anche questo tema. Una cosa che notavo è che l'accusa che fa la procura è addirittura di dichiarazione fraudolenta, cioè è un reato infamante in cui si accusa il contribuente di aver frodato il fisco, cioè di aver ostacolato l'azione di controllo, di aver prodotto documenti falsi. Mentre, ripeto, qui si tratta di una contestazione interpretativa. Se fosse vero che c'era una stabile non dichiarata, mettiamo che sia vero, tutt'al più ci sarebbe stato il reato di omessa dichiarazione, che diciamo c'è. E potrebbe anche essere un reato insussistente per mancanza del dolo, cioè è seriamente pensabile che Google Ireland abbia in totale buona fede, ove mai fosse dimostrato che c'era una stabile, ritenuto che invece stava correttamente applicando le regole. Quindi andare sulla dichiarazione fraudolenta significa muovere un'accusa pesantissima. Io lo paragonerei a una sorta di pistola puntata. Esatto, bravo. Vorrei usare questa parola, ma costringere a pagare una estorsione basata sul fatto che il brand è un asset troppo prezioso per essere macchiato pubblicamente da queste cose, come preferiscono pagare una cosa estorsiva piuttosto che accettare un lungo percorso di chiarificazione. Esattamente. Quindi esattamente questo contribuisce a balcanizzare un fenomeno che invece è fondamentale che rimanga standard, che è il processo di scambio economico su internet. E questo purtroppo non è solo l'Italia, un po' tutta l'Europa tutta sta frammentando l'Europa, sia economicamente che tecnologicamente, uno dei più grandi mercati dell'umanità, che sappiamo molto bene è controllato fortemente dalle grandi multinazionali americane per meriti e per capacità, ma non solo, anche per appoggio grande standard che il governo americano dà. Però la soluzione di farsi giustizia da solo è il Far West, guidato dalle procure, che nega profondamente il fondamento del patto fiscale, cioè trasparenza delle regole e come dire, lo stato di diritto. Stiamo però sostanzialmente applicando il principio di ghino di tacco: passi di qua sulla via Cassia per poter passare ti pago il centesimo. Però allora diciamo questo, ci sono anche valutazioni politiche, cioè il clima generale anche dopo il messaggio di Capodanno del Capo dello Stato. C'è l'esigenza di andare a, su Milano a riempire il posto che fu di Bruti liberati, esatto. E non per essere malevolo. No, fai bene. E nel frattempo, comunque, anche in altri paesi, voglio dire, il governo britannico ha recuperato da Google 130 milioni di sterline su un'evasione accertata, contestata, cioè di 4 miliardi. E comunque è in gestazione avanzata a livello europeo questa direttiva, che si preannuncia molto molto molto stretta e cogente. Non è un caso che gli Stati Uniti stanno già urlando. Hanno iniziato la controffensiva. Infatti sul Financial Times si riporta che gli Stati Uniti avrebbero detto all'Europa: giù le mani da tasse che vanno pagate negli Stati Uniti quando prima o poi le rimpatrieranno. E quello che è in gestazione in questo momento in Commissione Europea, sempre per mano degli uffici della Vestager, che ricordiamo a sua volta nel suo grande, noi nel nostro piccolo abbiamo le procure, loro nel loro grande hanno la Vestager, che sta cercando di recuperare impunibile usando che cosa? Che cosa? Gli aiuti di Stato illeciti. Comunque questa è una quindi gara tra grandi assetati, blocchi di Stati assetati. Però diciamo che la materia, secondo me, Oscar, va sistematizzata. Sistematizzata. Io sono per ruoli internazionali, però non sottovaluterei il fatto che poi tutto questo, il conto finale lo paga il cliente nazionale, che se batte le manine allo Stato che punta le pistole alla testa dei giganti della rete, alla fine Italia pagherete di più A, B e avrete meno servizi e O, perché alla fine questo è il rischio vero. Questo riguarda poi tutto, riguarda Uber, ma oggi parliamo solo di questo esempio di Google, perché in settimana ci sarebbe da dire anche di quello che è successo su Uber in Europa e a Parigi. Però questo è un rischio forte. Il populismo non vi fa vedere l'effetto del conto e dell'effetto qualità servizi se poi smobilizza di qua. E questo può avvenire, perché ci sono dei paesi europei che alla fine quelle multinazionali dicono lì no, ecco, no, non le facciamo più certe cose. Cari miei, no, non ti vedo perplesso però, Renato. No, io infatti le due cose che dico sono, allora, una è proprio quella che stavi dicendo tu adesso, cioè con questa cosa qua rischiamo di fare un passo indietro e tornare nel Medioevo dal punto di vista tecnologico. Cioè noi dovremmo implementare il fatto che le grandi multinazionali e le grandi società di servizi vengono in Europa a darci tecnologia e aiutarci sulla produttività, visto che è il problema grosso. Sì, magari non dovremmo dire che ci sono 6.000 assunti per un grande centro Apple a Napoli, magari scopriamo che sono 600, poi veramente Renzi è stato come Tatto e la Fontana di Trevi, ci sono cascati tutti i giornali italiani. Scusate, chiusa parentesi, i giornali italiani, no, ma è stato pazzesco come avrei avuto cosa modo gli di ha venduto su Apple a Napoli. Bastava una ricerca, peraltro su Google, scusami, probabilmente non usano Google perché è un evasore. No, non usano Google perché è un evasore, e allora adesso contro gli evasori non fanno più le ricerche per andare a cercare le cose. Bisogna incoraggiarli, invece noi li scoraggiamo. È la prima cosa. E la seconda cosa è che noi, se andiamo avanti così con le procure, facciamo scappare tutte le multinazionali. Ah, beh. Non solo, ma vedrete che se va avanti la lotta di Europa contro Stati Uniti per fare pagare le tasse ai grossi degli Stati Uniti, ci troveremo, non so in che settore, non so in che modo, una Volkswagen 2. Ah, beh, poi sai com'è, è ovvio che i conflitti hanno dei terreni di battaglia per essere regolati. Però detto tutto questo, noi vi abbiamo spiegato, quando vedete che c'è un procuratore prima dell'Agenzia delle Entrate che si imbasa su criteri che non sono definiti in ruoli internazionali per contestare basi imponibili e imposte dovute alle multinazionali, vi diciamo solo, cari ascoltatori, preoccupatevi invece di battere le manine, perché c'è qualcosa che non va, i cui effetti poi li pagherete voi come consumatori e clienti italiani. Grazie al professor Dario Stevanato e torniamo tra poco con la Cina in Rita Faticusa. Finita è la festa, stringiamo. della belva. Eccoci tornati in diretta, 11.39, primi 13 secondi. Per il momento abbiamo problemi col collegamento con la Cina. Rita, lo sappiamo che ci sei, però i collegamenti con la Cina, magari è partito oggi, hai detto delle cose, magari ti hanno intercettato, sai, chissà che cose porno, cioè sul telefonino i cinesi non hanno capito e quindi adesso veniamo boicottati noi. No, sto scherzando, però vediamo se riusciamo a riprendere presto la linea. E nel frattempo abbiamo delle telefonate, poi darò lettura di qualcuna delle dichiarazioni dell'intervento del governatore Ignazio Visco intanto al Forest che è in corso. Vi dico solo che è confermata la richiesta di modificare il bail-in, tanto per essere leggeri, per così dire, e vi dico che la tesi è radicalmente diversa da quella che abbiamo esposto noi. Cioè il governatore della Banca d'Italia dice non c'è alcun bisogno di aumento di capitale nel sistema bancario italiano, ma leggeremo le sue parole tra poco. Cominciamo con Costantino, che ci chiama dalla provincia di Caserta. Costantino, prego. Sì, io dico, ma quello che dice lei nelle trasmissioni, nel task force, che so, è tutto vangelo. No. Io, perché non viene realizzato in Italia che saremmo tutti meglio? No, ma io sono un suo ammiratore. È una critica o dice sul serio? No, dico sul serio, la sento sempre in continuazione. Comunque, io mi collego, rimango attaccato alla televisione. No, aspetti, la devo fermare perché sennò prima uno pensa a una convinzione. Secondo, questa trasmissione ha un nucleo di forza di cui io sono solo il collettore, per così dire. Sono quello che dice mettiamo insieme una squadra di persone che io stimo molto, quindi dichiaro il mio punto di vista, portatori di professionalità e di esperienze che combinati, come si vede ogni settimana, però beccano sempre dei punti di fondo dei problemi italiani. Cioè Mario Seminelli, un analista di mercato, un portfolio manager, esperienza in grandi banche, quindi ha l'esperienza di cosa vuol dire il cliente e in un'organizzazione in evoluzione, diciamo in una banca un po' delicata, complessa, ma di grande storia, però sempre a fronte ai mercati, e che divulga da anni con la sua, il suo blog, oltretutto. Caro Alberto Caramara Maffeo, professore della Bocconi, diciamo lontano dal cliché di come uno si aspetta il professore della Bocconi, perché anche lui moltissimo mercato, moltissima impresa, un pallino per vedere come può evolvere la capacità di intermediare domanda e offerta in termini di mercato, ma di nuove tecnologie. Allora, Renato Cifarelli, un imprenditore che sta sul mercato con una percentuale elevatissima del suo export e che però non si rassegna dal chiudere in Italia e battersi qua. Questo è il mix di persone. Io qui faccio solo il mio modesto mestiere, però come vedete, tra fisco e banche, tra regole di pubbliche e comportamenti privati, è una maniera diversa dalla solita informazione. Io non ho alcuna presunzione, e concludo, che il giornalista sia il depositario di verità. Il giornalista deve, come tutti, cercare persone, esperienze, indicatori che gli consentano di capire dei fenomeni che sono sempre in evoluzione e sempre diversi. Per me è un processo di scoperta, direbbe Hayek, fare bene questo mestiere. Allora, c'era poi un'altra telefonata in cui avevamo al telefono, dove è andato lo schermo, messa in onda Tiziana da Milano. Tiziana, eccomi. Eccoci qua, Tiziana. Buongiorno a tutti. No, io volevo portare l'esperienza di mio marito, che dalla consulenza è passato al mondo bancario. Lui sedeva nei consigli di amministrazione come organizzatore, quindi non come gestore di crediti e via dicendo, ma ovviamente le banche già 20 anni fa avevano bisogno di affrontare in maniera seria tutti i problemi che oggi stanno venendo al pettine. Mio marito ha cambiato gruppi bancari non accettando di avallare i piani di riorganizzazione, che in realtà non riorganizzavano un bel niente, ma erano soltanto dei piani. Ed è stato premiato o no? È stato premiato, nel senso che lui è uscito poi dal mondo bancario, perché quando si è reso conto che ovviamente non c'era la volontà, quindi lui alla fine serviva soltanto per coprire una casella voluta, quindi di un certo tipo, voluta dalla Banca d'Italia, quindi perché voi sapete benissimo che anche gli organigrammi delle banche, no, vengono valutati dal punto di vista tecnico, quindi sicuramente lui era uno che teoricamente dava lustro a una determinata struttura, ma però con un'esperienza non troppo positiva. E grazie di averci raccontato. Allora, un po' di dichiarazioni di Visco. Banche italiane sono solide, non serve capitale. materiali deteriorati ampiamente coperti da svalutazioni e garanzie. A Torino il governatore della Banca d'Italia dice: le banche italiane sono solide, non è necessario rafforzare ancora il capitale. Il patrimonio delle banche italiane, ha detto Visco, è oggi molto più elevato che in passato. Le banche italiane sono ben patrimonializzate anche grazie all'azione prudente presente alla vigilanza italiana e, nell'angolino lo aggiungo così, da più di un anno di quella europea. I crediti deteriorati, ha spiegato il governatore, sono ampiamente coperti da svalutazioni e garanzie. La congiuntura favorisce una ripresa della redditività per le banche come per le altre imprese. È il momento di affrontare e ridurre con decisione i costi di struttura, di porre le basi per una crescita robusta, eccetera eccetera. Come vedete, quasi toni da ordinaria amministrazione, ma una cosa è sicura: i crediti sono più che ampiamente coperti da svalutazioni e garanzie. Questa insistenza di Banca Italia sulle garanzie, quindi, è la contestazione del criterio con cui si calcola il costo il costo pubblico della garanzia. Perché dice: il criterio del coverage bancario, che è il criterio con cui vale dal punto di vista attuale per fare i bilanci, non è il criterio con cui andrebbero misurati il vero rischio dei crediti deteriorati in pancia alle banche italiane, caro Mario e caro Carlo Alberto. Non vi fa un po' impressione che la Banca d'Italia dica una fesseria di queste proporzioni? No, guarda, fammi dire, c'è una specificità italiana che è un po' particolare, questo tema delle garanzie, che nel resto d'Europa è molto meno praticato, perché abbiamo un capitalismo, come sai, che impoverisce le imprese ma arricchisce i loro titolari, e quindi nel tuo caso arricchisci entrambi, e mi va bene così. Fammi dire, però, un tema di questo incrocio un pochino secondo me incestuoso, no? Tra il profilo personale, e la stai prendendo lunga, Carlo Alberto. Il problema d'ora alla fine. Io ti dico solo che se uno studente va a raccontare come si giudica la garanzia di un credito e dice sul quello che si ricava all'escussione a 7 anni e mezzo dopo, il professore lo stanga, cazzo. Esatto, e invece il governatore lo ripete e lo fa scrivere ogni giorno su tutti i giornali, cazzo, e a me questa roba mi fa girare i coglioni. Ecco, io vorrei però, se te lo chiedo, Carlo Alberto, che da professore non me la meni, ma mi rispondi sul punto. Stavo cercando di difendere un pochino l'amatissima Banca Italia, diciamo, qualche spezzare qualche lancia, qualche cetriolo, BMW anche, spezziamole tutte. Ma non c'era in giro la Mercedes quando la lancia faceva la tema, anche tu. Tu dici che ha delle ragioni, non si capisce. Sto dicendo che è giusto sollevare delle specificità italiane, però quest'idea che noi abbiamo questo extra coverage, no? Per cui abbiamo questo monte di garanzie, specialmente sugli immobili industriali nel Molise, che dovrebbero coprire il recupero di crediti che hanno ancora una lunghezza di escussione tripla rispetto alla media europea, ecco, francamente, invece che qualitativamente dare l'assicurazione, il governatore dovrebbe mettere i numeri sul tavolo. Ma tutte queste garanzie, per esempio sugli immobili residenziali, vogliamo provare? Ipotizza che ce ne impossessiamo tutti in una notte di luna piena, domani li vendiamo tutti. Il valore della garanzia dove va? E poi il capannone, diciamo, che non diversamente utilizzabile, il valore della garanzia dove va? Impianti che sono idiosincratici e specifici, il valore della garanzia dove va? Beh, io ho visto perizie fatte per l'asset quality review 2 anni fa di capannoni industriali quotati a meno 80 euro. Sistema in prima linea per la solidità. Noi questa faccenda, che abbiamo il record dei non performing loan sul portafoglio crediti in questo paese, non lo vogliamo ammettere. Però una cosa, lo attribuiamo a colpa degli altri. Una cosa che non abbiamo detto è il 17%, ragazzi. Una cosa che in non Francia abbiamo è 4. Detto, che io ho letto questo, e noi non l'abbiamo detto durante la settimana, non l'abbiamo detto durante la trasmissione. Io ho letto in settimana, vogliamo migliorare i non performing loans, miglioriamo la giustizia, perché una delle cose il governo su questo arriva, una delle cose, fa un altro provvedimento su questo, una delle cose che fanno valutare pochi non performing loans sono i 7 anni e mezzo di tempo medio per l'escussione. Tra un minuto, strade. Fratelli d'Italia, l'Italia le mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della Belva. Eccoci qui, tornati in diretta da 11:49, primi 30 secondi con Palle di Conti da Belver. Renato, ma le supercazzole di Carlo Alberto oggi c'era Carlo Alberto in occasione del Forex. Diventa un po' più istituzionale. Leggi di nuovo quelle di Visco. Pattinava perché insomma dice ma qualità. Cioè, no, la questione è per fare il prezzo della garanzia vale il valore di escussione tra 7 anni della procedura giudiziale? No, perché comunque il mercato ha detto la sua opinione e secondo il mercato come la garanzia i bilanci vale. Bancari ti deve rispondere no. Cioè, io non mi occupo di bilancio bancario però un po' di risk management in azienda ti tocca farlo, perché poi dai il credito ai clienti e quindi nella speranza che ti paghino. Io per fortuna non ho grossi problemi da quel lato lì, però il funzionamento della giustizia per noi imprenditori è da sempre uno dei grandi problemi. Perché invece guarda, tu dici che neanche quello esiste. No, però Oscar, qui c'è un equivoco sul termine garanzia, no? Cioè lo Stato che dà le garanzie quando in realtà poi non sta facendo molto di più che cercare di interporre un prezzo di mercato. Qui le banche che reclamano l'esistenza di garanzie. La parola garanzia è una cosa che il mercato non compra più come una volta, perché ecco, la garanzia è un'espressione qualitativa che dal mio punto di vista va confrontata con un prezzo di mercato. Allora, queste rassicurazioni lascio il tempo che trovano, anche se, secondo me, fammelo ribadire, è giusto far capire che il modello organizzativo delle banche ha una responsabilità storica, non era una scusa, era una spiegazione, e cambierà, perché l'evoluzione verso la Capital Market Union, se stiamo lamentandoci degli effetti dell'unione bancaria, ma guardate che davanti a noi c'è l'unione del mercato dei capitali che accelererà ulteriormente questo cambiamento radicale del rapporto fra banca e impresa. Volevo solo confermarvi che il governatore della Banca d'Italia ha appena ribadito, tu dici un'altra tappa dell'unione, che la direttiva sul BRRD va ridiscussa dalle fondamenta, dice è prevista dalla direttiva stessa, solo che nella direttiva è previsto che si ridiscuta dal giugno 2018, e il governatore della Banca d'Italia dice bisogna discuterla subito tutta. Queste sono posizioni ufficiali della Banca d'Italia. Non so cosa dire. Beh, sul discorso garanzie, tra l'altro, tenete conto che una volta, io parlo per le piccole e medie aziende, cioè o piccolissime aziende, una volta avere l'immobile era uno degli asset migliori dell'avere l'azienda. In questo momento, secondo me, se ma quando sto dicendo che secondo me ti pagano meno l'azienda se hai dentro gli immobili, cioè. il modello di valutazione del rischio sta cambiando. La BCE ha impostato tutta la politica di supervisione dei prossimi anni su rivedere la logica delle garanzie e del rischio, perché se non armonizziamo questo noi riframmentiamo il mercato dei capitali. Questo che Banca d'Italia non può non capire è che quel modello Revisione delle nuove regole sui salvataggi, come non puoi non capire? Ti sto leggendo quello che dice Visco, però diciamo, è un'autorità delegata che non può discutere le regole dal mio punto di vista. Dice che vanno cambiate e non fa altro che ripetercelo ogni giorno. Non ha legittimità né politica né demografica dirlo. La politica non chiede niente di meglio di una nuova Banca d'Italia che finalmente parla dal loro punto di vista con questo linguaggio. A quelli che hanno riempito la sala qua a Milano con Salvini da tutta Europa, questa sembra la via da battere. La novità è una Banca d'Italia che parla così, questo è il punto. Sì, ma secondo me è illusione, nel senso che invece di capire e spiegare bene le regole europee, che sono magari complesse, difficili e sicuramente un po' penalizzanti per l'economia italiana, è giusto invece spiegarle e fare indirizzare l'economia in quel senso. Benissimo, invece che però conto. Siccome la Banca d'Italia dice non ci vogliono aumenti di capitale, noi invece li vogliamo, perché dicono vorremmo diluire asset di controllo che si sono rivelati inefficienti. Loro li difendono, questa è la verità, è una battaglia di potere, non è una battaglia su linee generali di principi. Meno Europa poi alla fine. Hai capito? Perché nell'intreccio bancario locale italiano c'è l'intreccio tra bei pezzi di rappresentanza industriale con l'USA, management bancario che si fa gli affari suoi e gli affari degli amici degli amici. È così, sappiamo che è così. Sì, l'intreccio ultimo però è il rapporto fra banche e debito pubblico. Lo sai che quando si spezza quello viene meno il grande patto. Quindi la verità è che invece tifo perché finalmente perché le banche possano e la Banca essere... d'Italia invece dice quello è una cosa però, che va mantenuta però, la garanzia di Stato la vogliono equilibrio. Per quello scusate però allora Visco dice la clausola è da avviare entro giugno 2018 per meglio allineare la disciplina europea facendo tesoro dell'esperienza. Ora Che esperienza di bail-in abbiamo avuto noi? Aspetta, la clausola del problema della visione da avviare in progetto del ministro. È auspicabile che questa occasione sia ora sfruttata. Quanti bail-in abbiamo fatto? Quanti bail-in abbiamo fatto dal 1 gennaio in Europa? Scusate, cioè io a me sono perso qualcosa. Ma per questo ti dico, beh, infatti qui la cosa è che aspettare il 2018. Bisogna aprire subito il tavolo per cambiarle subito. Lo so, però questo o sta panicando Visco, ma penso di no, oppure crea un rilevante problema a Renzi. Crea un rilevante problema a Renzi, ma certo, è una posizione politica questa. Vabbè, ma dai, in passato qualche governatore è andato a fare il presidente. Gli ha detto in Parlamento, del resto, dopo le quattro risolte, dopo i decreti, la Banca d'Italia ha consegnato, la prima volta che avviene nella sua storia, gli altri del Parlamento italiano, che il governo non aveva combattuto, lasciandola sola a combattere la battaglia perché il bail-in non si applicasse all'Italia prima del 2018. Comunque, posso dire, il bail-in rimane extrema ratio dopo un processo di risoluzione che è l'ultimo step. In realtà il problema di quest'anno è che partono i recovery plan, cioè partono gli interventi sui risanamenti bancari, non sulla risoluzione bancaria. Forse è di quello di cui dovremmo parlare. Ecco, vediamo però se con questa attitudine Banca d'Italia come li orienterà i piani. Ma io sono molto perplesso comunque da questa uscita di Visco, molto perplesso e altrettanto preoccupato, devo dire. Beh, Mario, il fatto che tu sia perplesso sulla ragione, diciamo in radio, no, che tu sei perplesso, fammi capire. Dai, Renato, dacci l'idea del non si può fare, facci stare meglio in questa chiusa di trasmissione. No, io ho letto stamattina il Sole 24 Ore e c'è una notizia pazzesca, cioè che c'è sempre meno gente congrua agli studi di settore. Però dice che adesso fanno un nuovo intervento. Strano, quindi tutto si semplifica. Strano. Tutto... Cioè, stiamo andando così bene, abbiamo un'economia così squillante, in piena ripresa. La gente non è congrua agli studi di settore, però c'è di buono che hanno esonerato chi sta cessando l'attività dal sottoporsi agli studi di settore. È troppo buono lei, come si suol dire, no? Questo... No, però gli studi di settore a me ha sempre fatto ridere, perché sono il plafond dell'evasione, nel senso che tu paghi il minimo che ti chiedono gli studi di settore, poi da lì in poi puoi evadere quanto vuoi. Sì, sono il plafond, però per chi sta sotto e si deve adeguare col professionista che ti dice gonfiare i dati per adeguarci, perché sennò ci vengono a rompere le scatole, ti garantisco. Sono una stortura italiana assoluta, per chi abbia avuto modo di compilarli, sono una di quelle cose assurde per cui... Cioè, ti viene voglia veramente di prendere quelli dell'Agenzia delle Entrate e fustigarli sulla pubblica piazza. Va bene, comunque detto tutto questo, io poi non vorrei, che vedo che c'è un amico che mi dice: ma come? Dicembre è stato un anno d'oro per la raccolta del risparmio gestito, voi fate queste trasmissioni, voi fate queste trasmissioni, eccetera, eccetera, eccetera. Beh, la gente non sa più dove metterli, ne mette nel risparmio gestito. Va bene, cioè abbiamo un eccesso di sottoscrizioni di obbligazioni bancarie, che sono 10 volte la media europea. Non dico di no, però voglio dire, a me non è che io sono poi felicissimo del fatto di questa cosa appena citata allora, comunque, vabbè, cari ascoltatori, vi abbiamo preoccupato oggi abbastanza. Oggi è stata dura. Oggi riuscire dura. Anche a farci capire. Ho capito, ogni tanto ci vuole. No, comunque, gli interi compari dei Conti la Belva, Mario, Carlo Alberto, Renato e Oscar Gino, vi auguro una buona domenica. Continuate sulla 24. Appuntamento alle 8:15 lunedì mattina con Alessandro Milan. Con Attenti a noi due, Fratelli d'Italia.